leporello presto in tavola. Che spenda i miei danari, io mi voglio divertir. Voi suonate, amici cari, già che spendo i miei danari, io mi voglio divertir, io mi voglio divertir. Bravi, cos'sarà? Che ti par del bel concerto? Conforme, conforme al vostro vento. Ah, che piatto saporito, ah, che piatto saporito, ah, che piatto saporito. Ah, che barbaro appetito. Che bocco vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Oh, che barbaro appetito, che bocconi accigante. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, di svenir. Oh, che barbaro appetito, mi par proprio di svenir. Bocconi da gigante, di par proprio di svenir, di par proprio di svenir, di par proprio di svenir. Piatto! Servo! Eccellente Marzivino, questo pezzo mi fa giaro, piano piano piano piano poi inghiottir. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir. Questa poi la conosco purtroppo. Leporello, padre mio, parla schietto, mascalzone. Non mi lascia una flusione, le parole no. Le parole non ferir. Mentre mangio, fischia un poco. Non so far. Cos'è? Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco. Si eccellente il vostro cuoco. Quello volli anch'io provar. Quello volli anch'io provar. Si eccellente cuoco mio, che lo voglio anche provar. L'ultima prova dell'amor mio, ancor voglio fare con te. Io non rammento le danni tuoi, le danni tuoi. Pietà, io sento. Cos'è? Cos'è? Cosa volete? Se non sorgete, non resti in piedi, non resti in piedi. E togliermi di trico, ad avere lo stesso onore.